البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها. Buongiorno Palestina. 150esima trasmissione su Radio Wombat. Il primo argomento che affrontiamo oggi è quello della manifestazione di sabato scorso, 29 marzo. Manifestazione indetta da ANPI, ARCI, CGIL, COSPE, Amnesty International, Emergency, Libera e Comunità Palestinese, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone. Diverse migliaia invece, secondo le stime del quotidiano La Repubblica, improvvisamente risvegliatosi dal suo colpevole torpore. Mentre la manifestazione indetta per la giornata della Terra il 30 marzo è stata annullata, non senza difficoltà, ma per confluire in un'unica giornata che ha visto una caratterizzazione delle grandi organizzazioni che l'avevano indetta, le quali hanno preferito anche che al microfono parlassero solo le realtà di base. Tra questi interventi c'è stato anche quello però di Firenze per la Palestina, intervento non privo di spunti polemici nei confronti degli organizzatori, ma con precisi contenuti. Come sentirete appunto tra breve nella nostra trasmissione, e dove ascolterete la frase «possiamo fare a meno della legalità», frase che è stata da molti mal accettata o male interpretata, mentre altri passaggi sono invece stati vivamente applauditi. La manifestazione non ha dato esito ad un intervento conclusivo. Tuttavia, la intollerabilità e l'attualità della situazione palestinese non può non dar luogo ad una generalizzata e viva aspettativa di un successivo di successive azioni coinvolgenti, e tra queste ha già trovato parere favorevole la proposta di un appuntamento per radunare e coordinare tutte le forze in campo. Torniamo a parlare del Diwan, una goccia per Gaza, l'iniziativa di Ali Rashid ospitata sotto il tendone del Circo Instabile, che si compone di interventi di esperti, spettacoli artistici, film, momenti di convivialità e riflessione, e che dal 2024 ha visto, tra gli altri incontri, la partecipazione di importanti organizzazioni, come è avvenuto nell'ultima edizione di domenica 30 marzo, quando sono stati ospitati due dei maggiori rappresentanti della CGIL, Rossano Rossi, segretario generale CGIL Toscana, e Paolo Gozzani, segretario regionale. Personaggi invitati per stimolare una coscienza diffusa a livello popolare e dei giovani sulla questione palestinese. In quell'occasione a Buongiorno Palestina li abbiamo intervistati, e con loro abbiamo intervistato anche Anna Maria Romano, responsabile delle politiche internazionali della CGIL Toscana. Prima degli interventi è stato proiettato il film Investigation War Crime in Gaza. Troverete il link a YouTube su cui è possibile vedere interamente questo documentario, appunto sulla pagina blog della trasmissione di oggi. Allora, tra gli eventi della settimana ricordiamo venerdì 4 al Circolo Arci Bencini in via Mercadante a Firenze, Valentina Pisanti, autrice del libro Antisemita, una parola in ostaggio. Il volume spiega l'evoluzione del termine tra definizioni politiche e strumentalizzazioni. Pisanti fa parte dell'organizzazione Mai Indifferenti, gruppo ebraico che ha recentemente pubblicato sul Manifesto e La Repubblica un appello contro il genocidio in atto a Gaza e la pulizia etnica nei territori palestinesi occupati. Altro incontro da non tralasciare, sempre venerdì 4 alle ore 11 presso il Circolo Arci Il Progresso, in via Vittorio Emanuele 135, la conferenza stampa sul tema «Lettera aperta al presidente Gianni. Il console di Israele non può presiedere la Fondazione Mayer». La regione toscana difenda il diritto internazionale e i diritti umani. Questo è il tema, saranno presenti Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, Caterina Arciprete, consigliera comunale, Vincenzo Pizzolo, consigliere comunale Sinistra Italiana, Giuseppe Carovani, deputato del Movimento 5 Stelle, il dottor Lorenzo Mirabile, già primario del Mayer, e i rappresentanti della CGIL Toscana. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Sara, Manuela e Gianna. Da Mondo Ways del 23 marzo del 2025, un articolo dal titolo «L'ultimo capitolo del genocidio» di Chris Hedge. Questo è l'ultimo capitolo del genocidio. È l'ultima sanguinosa spinta per cacciare i palestinesi da Gaza. Niente cibo, niente medicine, niente riparo, niente acqua pulita, niente elettricità. Israele sta rapidamente trasformando Gaza in un girone dantesco di miseria umana. L'ultimo capitolo segna la fine delle menzogne israeliane. La menzogna della soluzione dei due stati, la menzogna che Israele rispetta le leggi di guerra, la menzogna che Israele bombarda ospedali e scuole perché vengono usati come rifugi da Hamas. La menzogna che il 75% delle decine di migliaia di persone uccise a Gaza erano terroristi. E molte altre menzogne. Il volto genocida di Israele è a nudo. Ha ordinato l'evacuazione della parte settentrionale di Gaza, dove palestinesi disperati sono accampati tra le macerie delle loro case. Ciò che sta per arrivare è una carestia di massa. L'Agenzia delle Nazioni Unite, l'UNRWA, ha dichiarato il 21 marzo di avere ancora 6 giorni di scorte di farina. Il messaggio di Israele è inequivocabile. Andatevene o morirete. Gaza sarà inabitabile. Da martedì 18 marzo, quando Israele ha rotto il cessate il fuoco con pesanti bombardamenti, sono stati uccisi oltre 700 palestinesi, tra cui 200 bambini. In un periodo di 24 ore sono stati uccisi 400 palestinesi. Questo è solo l'inizio. Nessuna potenza occidentale, compresi gli Stati Uniti, che fornisce armi per il genocidio, intende fermarlo. Le immagini da Gaza durante i quasi 16 mesi di attacchi incessanti erano orribili, ma ciò che sta arrivando sarà ancora peggiore. Rivaleggerà con i crimini di guerra più atroci del XX secolo, tra cui il massacro e la distruzione del ghetto di Varsavia nel 1943 ad opera dei nazisti. Il 7 ottobre ha segnato una linea di demarcazione tra una politica israeliana che sosteneva la brutalizzazione e la sottomissione dei palestinesi e una politica che ne richiede lo sterminio e l'allontanamento dalla Palestina. Ciò a cui stiamo assistendo è l'equivalente storico del momento innescato dall'annientamento di circa 200 soldati guidati da George Custer nel giugno 1876 nella battaglia di Little Bighorn. Dopo quella sconfitta umiliante, i nativi americani furono destinati a essere uccisi e i superstiti costretti nei campi di prigionia, dove migliaia di persone morirono di malattie, vissero sotto lo sguardo spietato dei loro occupanti armati e caddero in una vita di miseria e disperazione. Aspettatevi lo stesso per i palestinesi di Gaza. abbandonati, sospetto, in uno degli inferni del mondo e dimenticati. L'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas è stato progettato per essere implementato in tre fasi. Israele ha firmato e firma abitualmente accordi, tra cui quelli di Camp David e gli accordi di Oslo, con calendari e fasi. Ottiene ciò che vuole, in questo caso il rilascio degli ostaggi, nella prima fase, e poi viola le fasi successive. Questo schema non è mai stato interrotto. I pesanti attacchi di bombardamento a Gaza da parte di Israele sono ripresi il 18 marzo, dopo che Israele ha infranto la tregua, mentre la maggior parte dei palestinesi dormiva o preparava il suhoor, il pasto consumato prima dell'alba durante il mese sacro di Ramadan. L'assalto genocida di Israele a Gaza è l'inevitabile epilogo del suo progetto coloniale e dello stato di apartheid. La conquista di tutta la Palestina, con la Giordania che presto, mi aspetto, sarà annessa da Israele, e lo sfollamento di tutti i palestinesi è stato sempre l'obiettivo del movimento sionista. Quella danza calibrata è finita. Questa è la fine. Ciò a cui stiamo assistendo eclissa tutti gli attacchi storici ai palestinesi. Il folle sogno genocida di Israele, un incubo palestinese, sta per realizzarsi. Distruggerà per sempre il mito che noi, o qualsiasi nazione occidentale, rispettiamo lo Stato di diritto, o siamo i protettori dei diritti umani, della democrazia e delle cosiddette virtù della civiltà occidentale. La barbarie di Israele è la nostra barbarie. Potremmo non capirlo, ma il resto del mondo. للموت لا ترجع واصنع للثورة أمجادا أنوارا في ليلك تصنع اسرع للجبهة أبطالا تأتي للموت لا ترجع واصنع للثورة أمجادا أنوارا في ليلك تصنع اسرع للجبهة أبطالا تأتي للموت لا ترجع. Dal manifesto del 28 marzo, un articolo di Eliana Riva dal titolo Trovati uccisi i 15 soccorritori assediati dall'esercito a Rafah. Prima è stato ritrovato ucciso il capo della missione di soccorso inviato a Rafah per evacuare i feriti di Tal al-Sultan. Poi gli altri 14 soccorritori, i membri della Mezzaluna Rossa palestinese e della protezione civile mandati nell'area assediata dall'esercito israeliano. Decine di richieste di aiuto e assistenza erano giunte ai soccorritori, le cui centrali operative avevano informato i militari dell'arrivo delle ambulanze, ma i contatti si sono interrotti 6 giorni fa, quando il team ha avvertito di essere circondato e sotto attacco. Ieri, dopo 5 giorni, è stato rinvenuto il corpo di Answar al-Attar e degli altri 14 operatori. Giustiziati, riporta la stampa locale, e le loro ambulanze distrutte. La Mezzaluna Rossa ha richiesto a Tel Aviv di aprire l'accesso alla zona, da cui continuano a giungere richieste di aiuto della popolazione civile rimasta intrappolata senza cibo, acqua né assistenza sanitaria, sotto pesanti e incessanti bombardamenti. A Khan Yunis gli aerei hanno distrutto 3 case nel giro di pochi minuti e a Zeytun un uomo disabile è stato colpito e ucciso da un cecchino israeliano mentre tentava di aprire un pacco di biscotti. Alcuni palestinesi feriti o ammalati, incluso un bambino senza un arto, sono usciti dalla striscia attraverso il valico di Karem Abu Salem Kerem Shalom. Si tratta probabilmente della prima evacuazione medica dall'inizio del nuovo attacco israeliano. Non è abbastanza. Sono almeno 15.600 le richieste presentate all'Organizzazione Mondiale della Sanità e a queste si aggiungono altre migliaia di persone che avrebbero bisogno di cure urgenti, ma che non possono ottenere una diagnosi valida a causa della terribile condizione della sanità a Gaza. E continua il blocco totale di aiuti umanitari. Sono passate 3 settimane da quando Tel Aviv ha ordinato di tagliare cibo, medici, medicine, acqua, carburante. Il commissario dell'OMBRA, ONU, Philippe Lazzarini, ha detto che si tratta del periodo più lungo dall'inizio della guerra. Il programma alimentare mondiale denuncia che centinaia di migliaia di palestinesi sono di nuovo a rischio fame e malnutrizione perché i bombardamenti e l'avanzata dei carri armati hanno interrotto anche le operazioni di distribuzione delle scorte rimanenti. Non si discute di tregua, invece, nella Cisgiordania occupata, dove l'esercito espande con violenza le proprie operazioni. Ieri i militari sono entrati nella città di Huwara, dove hanno sparato a un ragazzo di 18 anni, sequestrandone il corpo senza vita. Un 15enne è stato ferito a Nablus e altri 3 bambini sono stati colpiti a Hebron. In settimana le industrie aerospaziali israeliane hanno presentato il robot Dozer, ossia un bulldozer automatico che controllabile da remoto. La ruspa, che durante la dimostrazione era guidata addirittura dagli Stati Uniti, è stata presentata come un'innovazione rivoluzionaria per demolire strutture nemiche e modificare paesaggi senza mettere in pericolo la vita dei soldati. Dal manifesto del 30 marzo «Nel mondo che ama gli eroi, Hossam è invisibile». Articolo di Matteo Nucci. Testamento spirituale del giornalista Hossam Shabbat. Se state leggendo queste righe, significa che sono stato ucciso dalle forze di occupazione israeliane. Quando tutto questo è iniziato avevo solo 21 anni ed ero uno studente con i sogni di chiunque altro. Negli ultimi 18 mesi ho dedicato ogni momento della mia vita alla mia gente. Ho documentato gli orrori a Gaza Nord, minuto dopo minuto, pur di mostrare al mondo la verità che si è cercato di seppellire. Ho dormito per terra, nelle scuole, in tenda, ovunque potessi. Ogni giorno è stata una battaglia per la sopravvivenza. Ho sofferto la fame per mesi, eppure non ho mai lasciato la mia gente. Ho compiuto il mio dovere di giornalista. Ho rischiato tutto, pur di raccontare la verità. E ora infine riposo. Un riposo che non ho mai conosciuto nei passati 18 mesi. Ho fatto questo con fede nella causa palestinese. Credo che questa terra sia nostra e che il più grande onore della mia vita sia morire in sua difesa e al servizio della mia gente. Vi chiedo ora, non smettete di parlare di Gaza, non lasciate che il mondo si volti dall'altra parte, continuate a lottare, continuate a raccontare le nostre storie finché la Palestina sarà libera. شلالات الدم وبيوت هدم قاومت وكنت الشوكة في حلق التنين أرهبت الدبابات العزل بالسكين قاومت وقمت الشوكة في حلق التنين أرهبت الدبابات العزل بالسكين أطفالك يتم يتم يتم شلالات الدم وبيوت هدم شلالات الدم وبيوت هدم. Da Jacobin Italia, un articolo di Tommaso Chiti dal titolo Di One, il sogno di una cosa. 1 aprile 2025. L'ex primo segretario dell'ambasciata di Palestina in Italia, deputato Ali Rashid, racconta la situazione a Gaza e la sua iniziativa di dialogo a confronto. Fra gli attivisti di più lungo corso per la causa di autodeterminazione della Palestina in Italia c'è Ali Rashid, segretario nazionale dell'Unione Generale degli Studenti Palestinesi, che è stato anche membro dell'Unione Generale degli Scrittori, successivamente segretario dell'Ambasciata di Palestina, deputato alla Camera della XV legislatura con Rifondazione Comunista, fondatore insieme a Monio Vadi e a Michele Nardelli dell'associazione Mezzaluna Fertile del Mediterraneo. Il suo impegno per la pace in Medio Oriente non è mai venuto meno e in questa ulteriore recrudescenza di una catastrofe lunga decenni per la popolazione palestinese si è fatto intervistare in occasione dell'ottava edizione di Di One, una goccia per Gaza, la cui attenzione stavolta era puntata sull'Europa, matrice del colonialismo che colpisce anche la popolazione gazzaui. Nel silenzio totale di governi come quello italiano, quasi un silenzio assenso per la complicità negli affari con un governo come quello israeliano, condannato per crimini contro l'umanità. Di fronte alla ripresa dell'aggressione israeliana, Ali Rashid fa notare un cambio di approccio rispetto al precedente appiattimento sul diritto alla difesa di Israele. Questo da parte di Francia, Germania e Regno Unito, anche se del tutto insignificante sul piano pratico, di fronte a quasi 50.000 vittime e alla sistematica violazione del diritto internazionale da parte di Tel Aviv. Il piano di ricostruzione arabo, coordinato dall'Egitto insieme a Qatar, Emirati Arabi Uniti e all'Arabia Saudita, viene visto da Rashid come semplici promesse a parole, senza un aiuto concreto dei governi, che per la natura stessa di certi regimi antidemocratici e dell'influenza degli affari occidentali, sembrano limitarsi solo a propaganda. Un altro elemento di discontinuità viene individuato da Rashid proprio nella portata delle operazioni militari di Israele, che ha sviluppato piani anche per rivedere gli equilibri nell'intera area, conducendo incursioni in Libano e Siria. Rashid fa notare inoltre i progetti di pulizia etnica anche in Cisgiordania, dove il ministro dell'estrema destra israeliana Smotrich dichiara di voler 13 nuovi insediamenti alzando la bandiera con la stella di David nella West Bank come parte del territorio di Israele. Qui la violenza colonialista di Tel Aviv dilaga in particolare nei campi profughi di Jenin e Tulkarem, con devastazioni e continui sfollamenti delle persone. Critica alla ANP che sta portando avanti, secondo Rashid, una reazione di sola condanna di per sé molto debole nella richiesta del rispetto del diritto internazionale, mantenendo la condiscendenza al disegno degli accordi di Oslo, che hanno portato a un finto Stato senza sovranità. Questo soprattutto dopo la scomparsa del leader Yasser Arafat e con l'accantonamento delle consultazioni elettorali. Il fulcro del problema risiede negli Stati Uniti e nel governo di destra israeliano, prosegue Rashid, che condividono l'obiettivo di guerra per arrivare a quella che è stata definita da Netanyahu una vittoria definitiva, termine raccapricciante che assomiglia molto alla soluzione finale di una volta, se si considerano i piani di trasferimento forzato della popolazione lasciata fra le macerie della guerra senza medicine né cibo. Guardando le migliaia di persone scese in strada a manifestare a Gerusalemme e Tel Aviv, però si direbbe che l'indignazione per l'abbandono degli ostaggi al loro destino si sia unita al crescente malcontento per la malversazione del governo. All'inizio della ripresa del conflitto fra Israele e Gaza, afferma Rashid, si è delineata una spaccatura dentro la società israeliana su due questioni in particolare, sull'ordinamento giuridico e sul destino degli ostaggi di Hamas. Per questo siamo di fronte a una nuova pagina per Tel Aviv, che esce dalla definizione di unica democrazia del Medio Oriente, per mostrare che, oltre al sistema di apartheid e alle colonie illegali a danno dei palestinesi, l'estrema destra assume un carattere eversivo anche rispetto allo Stato di diritto e alle sue istituzioni democratiche. Ma nonostante le proteste di piazza, secondo Rashid, il destino dei palestinesi non è un elemento discriminante nel dibattito politico e nelle mobilitazioni israeliane, dove prevale l'approccio sionista e sembra perdurare il supporto all'aggressione su Gaza, eccezion fatta per una piccola minoranza. Già la risoluzione numero 181 del 1945 prescriveva accordi contravvenuti con l'espulsione in massa della popolazione e l'occupazione del 78% del territorio da parte israeliana. Purtroppo l'inosservanza del diritto internazionale e delle risoluzioni dell'Assemblea Generale, ribadisce Rashid, sono un fatto cronico nelle rivendicazioni di pace e indipendenza della Palestina, che senza l'impegno vincolante garantito da altrettante potenze coinvolte resta meramente sulla carta. E proprio per rimettere al centro del dibattito pubblico le questioni in corso, dove tutti i villaggi avevano un diwan come centro della discussione politica, dallo scorso anno Ali Rashid ha promosso a Firenze e dintorni incontri con questo titolo. L'intento del diwan è quello di affrontare un problema fondamentale, spiega Rashid, tornando a un luogo comodo da cui deriva anche il nome italiano della seduta da salotto, dove ci si trova a parlare per capire e risolvere i problemi in un contesto di scambio culturale come avveniva nelle periferie dell'impero ottomano quando le comunità locali erano loro a prendere le decisioni. Diwan, una goccia per Gaza, è un'iniziativa ospitata sotto il tendone da circo di Instabile. Nel Diwan vere protagoniste sono le parole, secondo la presentazione di Rashid, rappresenta quello che Marx in modo suggestivo definisce il sogno di una cosa, il soggetto umano che attende il tempo che non c'è ancora, l'uomo inedito, intenzione verso il futuro, verso il suo adempimento per creare il futuro che non è più certezza ma è una pura ipotesi. Il futuro ci sarà se lo avremo creato. Ascoltiamo ora Edo per Firenze per la Palestina dalla manifestazione del 29 marzo al piazzale Michelangelo. A tutti e a tutte, grazie per aver dato questa possibilità di intervenire. Cerco di rubare pochissimo tempo, ma credo che sia necessario dare alcuni punti di vista. Intanto Firenze per la Palestina è una realtà attiva da quasi una decina di anni, ma che ovviamente in questo anno e mezzo ha accentuato la propria attività e le proprie presenze. È una realtà che nonostante difficoltà e limiti è un riferimento sia per realtà cittadine ma anche per singoli. Non c'è assolutamente nessun tipo di preclusione se chi è interessato a portare avanti l'informazione su quanto accade in Palestina, sul propagandare e organizzare iniziative di boicottaggio e protesta, si presenta alle riunioni, partecipa da una mano senza appartenere a nessun tipo di organizzazione esistente. Detto questo, riteniamo però sottolineare che per noi, ma dalle riprove che abbiamo anche per tanti altri, visto che la solidarietà alla Palestina è una priorità, riteniamo che aver deciso di essere qui è un segnale importante, perché come Firenze per la Palestina avevamo già da tempo deciso di fare una manifestazione domani in occasione del Giorno della Terra all'ARD. Avendo saputo che c'era questa manifestazione e tenendo in considerazione, ripeto, che la Palestina è prioritaria su tutto, abbiamo deciso di annullare il corteo di domani e di essere presenti oggi. E vorrei dire anche alcuni punti di vista che probabilmente possono suscitare disagio in chi ascolta, ma credo e crediamo che sia necessario fare alcune puntualizzazioni. Prima di tutto, la scelta di questo percorso la riteniamo completamente sbagliata. Perché, e questo non è un'opinione mia o nostra, tante persone mi hanno dato questa sensazione, mi hanno detto che era sbagliato, perché si può considerare il centro di Firenze giustamente una mangiatoia, una meta per turisti, e si può dare la definizione che si vuole, comunque il centro rimane non a caso centrale. Fare una manifestazione sui tornanti del piazzale Michelangelo non rende assolutamente la visibilità che la questione palestinese deve avere. Inoltre, rispetto a quello che c'è scritto nella piattaforma di convocazione della manifestazione, si parla di fermare la guerra su Gaza. Ragazzi, anche in questo caso non è un punto di vista, ma credo che sia sufficiente fare attenzione, estrema attenzione a quello che sta succedendo. Non è una guerra in corso, c'è un genocidio. C'è la pulizia etnica, viene reso inabitabile qualsiasi luogo, il sistema sanitario e quello idrico sono totalmente distrutti, la fame è diventata un'arma di guerra, ci sono 50.000 uccisi, questa non è una guerra, è un genocidio, e se ancora si continua a lambiccarsi le discussioni, è corretto, non è corretto, è un genocidio, non è un genocidio, fate voi, chiamatela come vi pare, ma in Palestina si continua a morire. Questo tutto ad opera di quella che viene considerata l'unica democrazia del Medio Oriente. Se questa è la democrazia, figuriamoci che cosa sono le dittature. L'altra è la questione del diritto internazionale, che si richiama sempre nella piattaforma di convocazione della manifestazione di oggi. Ma ci rendiamo conto di quale diritto si parla? Il diritto internazionale sarebbe quello che in questi ultimi anni ha prodotto lo sfacelo in Afghanistan, lo sfacelo in Iraq, lo sfacelo in Libia, lo sfacelo in Jugoslavia, con l'Unione Europea in prima fila. Ricordiamoci di questi giorni, ricorda l'anniversario dei bombardamenti su Belgrado, ma chi li ha fatti? Il diritto internazionale è quel diritto che ogni tanto riesce a fare una mozione di condanna sul comportamento di Israele, ma sappiamo tutti bene che cosa Israele fa di quelle mozioni, assolutamente niente. E nessuno fa niente, non c'è nessuna sanzione sul fatto che Israele non rispetta le mozioni del diritto internazionale. Questo dovrebbe essere il diritto internazionale. Ne facciamo anche a meno, perché l'unico diritto che ci permette di essere anche qui in piazza stasera è il diritto alla resistenza, che i palestinesi stanno portando avanti da oltre un anno. E è quel diritto che tutti i popoli oppressi storicamente fanno per liberarsi. Non esistono appelli, non esistono mediazioni, o i popoli si liberano da soli con le forme che ritengono più giuste, più corrette. Non ci si può affidare alle fasullità e alle falsità del diritto internazionale. E se l'occupazione sta facendo quello che sta facendo, non è per l'opera di uno psicopatico, ma per le complicità degli Stati Uniti prima di tutto, con la fornitura di armi, che sia di Biden o di Trump. Perché se gli Stati Uniti avevano smesso immediatamente di fornire le armi all'occupazione, probabilmente le cose sarebbero molto diverse da quelle di oggi. Ma le complicità sono quelle degli Stati Uniti, ma non solamente di loro, di tutto l'Occidente, anche dell'Italia, l'Italia compresa. Per questo chiediamo, perché se no si dice giustamente che siamo solamente, tra virgolette, bravi a criticare, ma non si fanno proposte. Allora chiediamo la rottura totale, senza niente escluso, delle relazioni politiche, istituzionali e commerciali con l'occupazione israeliana. Sosteniamo il boicottaggio, che è uno strumento già usato positivamente tantissimi anni fa nei confronti dell'apartheid del Sudafrica, come stanno facendo i portuali in questi giorni proprio a Ravenna. I portuali stanno mettendo in pratica il blocco di quelle navi che hanno rapporti con l'occupazione israeliana. Viva i portuali, i ferrovieri contro la guerra, i sanitari per casa con la campagna contro Teva, come è stato ricordato durante il corteo, le mobilitazioni studentesche. Questa è la solidarietà che è importante, e c'è uno strumento storicamente importante in mano ai lavoratori. Questo strumento è lo sciopero generale. Chiediamo con forza, con determinazione, al sindacalismo di base in tutte le sue forme, alla CGIL, visto che è una di quelle che promuove oggi la manifestazione, finalmente dopo 50.000 morti. Sciopero generale contro il genocidio, sciopero generale ora e subito. E per restare nell'ambito fiorentino, chiediamo che il console onorario di Israele, tale Carrai, sia rimosso dalla carica della Fondazione Mayer, subito! Mi avvio alla conclusione e ricordo che le nostre mobilitazioni, cioè le nostre di tutti coloro che si oppongono a questo stato di cose, non si fermano certamente oggi. Sabato prossimo, il 5, ci sarà alle 2:30, con partenza dai Viavariti, un corteo contro l'approvazione del prossimo comando NATO e contro quello che sta facendo. E ci sarà anche occasione per ricordare il congresso che la Lega, in maniera indegna, terrà a Firenze in quei due giorni, il 4 e il 5. E quindi il 5 c'è questa manifestazione a cui invitiamo tutti a partecipare. Mi avvio alla conclusione dicendo che il silenzio, le complicità non porteranno alla sconfitta della Palestina, ma alla sconfitta di tutti noi. Concludo con le parole di Hossan Shabbat, uno dei tantissimi giornalisti assassinati, e ho visto che tanti anche l'hanno ricordato oggi con cartelli scritti a mano. Vi chiedo, non smettete di parlare di Gaza. Non lasciate che il mondo si volti dall'altra parte, continuate a lottare, continuate a raccontare le nostre storie finché la Palestina sarà libera. Grazie. disumani, siamo umani, siamo umani, siamo disumani, siamo umani, siamo umani, siamo disumani, siamo umani, siamo umani, siamo disumani, siamo umani. A volte pronti ad aiutare il prossimo, a chiudere gli occhi, a cambiare canale e a rimandare tutto a lunedì, a dire che tanto non cambierà mai. Siamo disumani, tra aiuti umanitari e mini antiuomo, sterminare ogni forma vivente sul pianeta, che coi soldi e l'amicizia si va in culo alla giustizia, e dopo la terra nuovi stronzi van su Marte a far danni pure lì. È sempre la stessa sporca storia che ci parla di danni collaterali. Ci dicono che in fondo la guerra è giusta così, che la colpa è sempre di chi muore. È la guerra, bambino, che ti ruba la madre, la casa, un braccio, una gamba, che ti porta via verso l'inferno. Se per caso te la cavi e ce la fai a fuggire e non sai neanche dove andare. Ma se le mura... Andiamo adesso al Diwan di Ali Rashid, il Diwan Una goccia per Gaza, e alle interviste ai due rappresentanti della CGIL, Rossano Rossi, segretario generale CGIL Toscana, e Paolo Gozzani, segretario regionale. Entrambi hanno risposto a una domanda. Allora, ieri a Firenze c'è stata una grande manifestazione organizzata dalla CGIL, ma non solo, ma dall'AMPI, dall'ARCI, dal COSPE e dalla comunità palestinese. E volevo sapere, appunto, questa convergenza di queste grandi organizzazioni dimostra che c'è una convergenza anche nel pensiero di vedere la situazione palestinese, in che stato si trova, a che punto siamo con questo genocidio. Ecco, io non parlerei, spesso sento parlare di guerra, ma secondo me questa non è una guerra, perché le guerre si fanno tra due eserciti e non certo ammazzando bambini, inermi e donne. Allora, questo aspetto ha creato, diciamo, un'aspettativa. Io, per esempio, la mia organizzazione c'era anche all'interno di Firenze per la Palestina, che è un'organizzazione che contiene altre realtà, diciamo, associative. Allora, la domanda è questa: risponderete con un tavolo di trattative a queste aspettative per definire quali saranno le azioni concrete che la CGIL potrebbe fare? La butto là: Firenze per la Palestina ha proposto un grande sciopero, un sciopero generale, quindi, ecco, non so voi che cosa ne pensate di questo. Ma ha detto prima che le iniziative come quelle di ieri a Firenze sono nate da una riflessione più politicente anche della CGIL Toscana, che a un certo punto, di fronte all'ennesima ripresa brutale di quella strage, quel mattatoio che sta avvenendo a Gaza, abbiamo detto: facciamo qualsiasi cosa. Abbiamo trovato, per fortuna, come succede spesso, tante altre associazioni nel cammino, e iniziative come quelle di ieri a Firenze, ti posso garantire, sono state fatte, vengono fatte ovunque, e questa è una cosa positiva. Anche della stessa, anche belle e corpose, non è che io, per esempio, ieri ero all'ospedale a fare un controllo, non sono potuto venire, ma fu fatta Empoli venerdì, fu una bella iniziativa anche quella lì, quelle fanno a massa, come diceva prima lì, quindi per noi continua la volontà stare dentro questa sfida per la pace e per la giustizia verso un popolo che, sulla quale anche alcuni concetti fondamentali, due popoli, due stati, anche una parte degli israeliani, cominciamo a stridere, perché lì vediamo una prevalenza di un sentimento, di un odio, di una cattiveria che, insomma, servisce male a un popolo civile, tanto per essere chiari, no? Quindi noi ci vogliamo stare, ci staremo, e come ho detto prima valuteremo se lanciare a livello regionale, perché poi la CGL è un'organizzazione ancora tra virgolette, io per fortuna all'antica, noi ci abbiamo provinciale, regionale e nazionale, se c'è uno sciopero generale viene fatto a livello nazionale, lo lancia Landini. Io ripeto, quando sono state fatte le manifestazioni nazionali per la pace a Roma, se vi ricordate le date, cominciarono subito all'indomani della guerra tra Russia e Ucraina, insomma fu una grande manifestazione, CGL, le solite associazioni e l'associazione di attori. Quindi lo sciopero è una questione che potrebbe avere anche un senso, però a questi punti bisognerebbe allora fare un ragionamento, penso io, è più generale, non perché l'importanza di quello che sta succedendo in Palestina non giustificherebbe un mese di sciopero, per capirci, no? Però io la vedrei più giusta una manifestazione nazionale. Io per quanto mi riguarda ti posso dire che se non ci sarà nazionale stiamo lavorando per quella regionale. Sullo sciopero invece, sulla guerra, su quello che sta succedendo, ora non ci sarà la campagna referendaria, ma guarda, sulla guerra, io voglio dire questo fatto qui, perché anche quello che sta succedendo in Palestina e questa nuova ondata bellicista che sta prevalendo nel nostro paese, con questi giornalisti che a me mi fanno schifo, voglio proprio dire la Gruber, Giannini, ma che, la Pichern, ma che pensano alla guerra come risoluzione dei conflitti internazionali, no? Che pensano, che fanno trasmissioni televisive in cui domandano alle persone come mai gli italiani non sono più un popolo di guerrieri, ma vaffanculo, ma un popolo di guerrieri, io te li faccio vedere i guerrieri italiani, sono quelli che se ne vanno a mattina alle 5, vanno a lavorare, si fanno un mazzo sì o ce la fanno arrivare a fine del mese, sono gli insegnanti operari, sono disoccupati, allora non devono dare i miliardi, le armi per risolvere il problema della povertà di questa cosa qui. La mia paura è che questa prima bellicista, piano piano, e sulla quale passa anche l'accettare quello in maniera silenziosa quello che sta succedendo in Palestina, alla fine può aprire gli scenari che potrebbero riguardarci tutti. E guardate, io sono convinto, se ci fosse una terza guerra mondiale, il futuro non ci saranno né vinti né vincitori. Per cui se fosse questa la riflessione ci vorrei sopra lo sciopero generale, perché l'andazzo è quello lì. Cioè, se qualcuno pensa di andare in quella direzione lì, e diventa una tragedia. Per quanto riguarda il percorso sulla Palestina, noi, ripeto, può dire anche Paolo, tutto il sostegno possibile, anche quella lì se la pensava di dargli una mano a mandare avanti questa esperienza, avevo promesso, si va avanti con quella strada, ma dal punto di vista politico, da arrivare a far fiorire tutte queste manifestazioni territoriali, portare avanti questa mostra, e poi se c'è le condizioni, perché poi lo so che la riescano, proprio per fortuna riescano, di fare una grande manifestazione regionale, che serve una grande cosa. Do la parola a Paolo. Sì. Ascolto anche la sua risposta. Cosa fa? Lo ripeto. No, è chiaro che non sei l'unica, no? Tanti compagni parlando, insomma, tra di noi, la CGL appunto è l'avanguardia rimasta perché è dal punto di vista organizzativo e quindi giustamente ci sono anche tante aspettative. Io sono Paolo, sono compagno, c'è una storia, c'è un sentire, se ti rispondo come Paolo ti darei un tipo di risposta che forse è come la tua. Dopodiché sono anche un compagno della CGL, che è una cosa più composita, nel senso è un insieme di individui, che sono tanti individui, tante sensibilità. Io ti faccio un esempio, io vengo dalla fabbrica, ho fatto delegato di fabbrica della Fiomma, quindi a Genova ero in piazza con la Fiomma e quindi ero per contro la globalizzazione già più di 20 anni fa, e per un mondo, no? Per un mondo diverso, quindi anche contro le guerre. La CGL ad esempio all'epoca aveva una posizione diversa rispetto a noi della FIOM, ma anche rispetto ad esempio a Rossano, che rappresentava una sensibilità diciamo un pochino più di sinistra. Io ti dico che in questi 20 anni tutti insieme abbiamo fatto un passaggio molto più avanzato, nel senso che noi siamo convintamente senza ma per la pace, e questa convinzione ci ha portato anche l'organizzazione da questa parte. Poi siamo un sindacato che ha rapporti con gli altri sindacati internazionali, guardo lì che diciamo Maurizio, ieri io ero a Roma, c'era questa assemblea sulla pace, che ad esempio quasi tutti i sindacati europei non hanno la nostra stessa posizione sulla pace. E siamo, diciamo così, e quindi abbiamo relazioni anche con tutto il mondo cattolico, con la Via Maestra che è fatta di tantissime associazioni, siamo all'interno di Peace for Peace. Stiamo lavorando per avere una direzione dove l'affermazione di determinati principi, di determinati valori siano sempre più marcati e affermati. Quello che ti posso dire è che noi ci metteremo l'impegno, anche se fosse possibile, anche fino ad arrivare a questo problema. Ti dico che bisogna continuare a fare quello che stiamo facendo, ad esempio noi in Toscana, ma anche alcune categorie, anche altre parti della CGIL, ma vi posso dire che anche il segretario generale in questo senso ha una grande sensibilità politica. Grazie. Beh, grazie. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world, and baby, let me show you things, 'cause time is running and we can't lose. Baby, come and dance, we gonna make it through, 'cause we got... Sempre al D1. L'intervento di Anna Maria Romano, responsabile delle politiche internazionali della CGIL Toscana, ci suggerisce di farle una breve intervista. Io sono Gianna di Buongiorno Palestina. Ti devo dire. Sono qui, Anna Maria Romano, con Anna Maria Romano, e sono la responsabile delle politiche internazionali per la CGIL Toscana, e in questo ruolo lavoro con il sindacato europeo, in particolare con Uni, che è il sindacato europeo che rappresenta i servizi. E quello che mi interessava dire è che l'impegno della CGIL a livello europeo è fortissimo per i temi della pace, e noi stiamo facendo un grande lavoro all'interno della CES, che è il sindacato europeo appunto, per mettere insieme e creare alleanze con tutta quella parte sindacale che è per la pace, in una situazione in cui anche i sindacati rappresentano le posizioni dei singoli paesi, quindi in un momento come questo non è facile trovare una quadra comune sul tema della pace. Penso per esempio al sindacato finlandese, mi vengono in mente loro, che hanno grandi difficoltà proprio per quella che è la loro storia, quello che è il loro confine. Detto questo, però, se umanamente si può comprendere, politicamente è inaccettabile che non ci si schieri per la pace, e quindi siamo riusciti a lavorare per fermare una dichiarazione a favore del Rearm Europe. Poi, come sindacato dei servizi, vengo adesso dal congresso di Belfast. Quello che io ho potuto sperimentare in questi giorni è che il fronte a favore della causa palestinese è sempre più largo sindacalmente. Ho visto un impegno fortissimo, oltre che dei sindacati meridionali del sud Europa e della Francia, che diciamo al quale ero abituata, l'impegno dei sindacati della Gran Bretagna, sia dell'Irlanda sia dell'Inghilterra. Opposizione invece da parte di altre nazioni? Devo dire che il sindacato tedesco è molto vicino alle posizioni israeliane e qualche paese nordico che, diciamo, anche storicamente ha un atteggiamento meno conflittuale rispetto a quelle che sono le posizioni sindacali. Si è cercato e si continua a cercare una mediazione possibile per un documento comune. In questo momento abbiamo trovato la quadra su un documento generale sulla pace e stiamo lavorando per un documento comune su Gaza. Questa strada è più difficile. Ah sì, questo senza dubbio. No, infatti hai nominato l'esempio tedesco, che sappiamo appunto. E qualcuno si domandava anche se anche noi in Italia non finiremo come la Germania, che addirittura arresta le persone semplicemente per un'opinione diversa da... che non pro Palestina, diciamo. Questo è un grave rischio avendo questo governo. Come CGL noi ci stiamo battendo e continueremo a batterci, perché il diritto di parola è un diritto sacrosanto e sta proprio nella libertà di ognuna e ognuno di noi. E te cosa ne pensi dello sciopero generale? Lo sciopero generale è un tema complicato, perché uno sciopero sia sentito deve crescere la consapevolezza nelle persone. Quindi in questo momento il primo passo è proprio questo, quello che stiamo facendo insieme anche a te, cioè parlare, raccontare, dire, far vedere cosa veramente è in questo momento il genocidio di Gaza, cosa rappresenta, far crescere anche non l'indignazione, la rabbia, l'incazzatura, perché questo dobbiamo essere arrabbiati rispetto a tutto questo, e poi potremo parlare di sciopero. Grazie mille. No, grazie a te infinitamente. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. Garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, deseas tú mi tesoro, basta caminar. Era questa la nostra ultima notizia, e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 16 aprile, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.